Ehi, mi senti? Sugar. Mi sei ritornato a me, a Santiago, con questa acqua di merda, mi sono rotto le scarpe. Ehi, vabbè, rimaniamo qua al canale 20, perché il canale 23 così diamo la possibilità anche a loro di parlare, diciamo che modo per agire anch'io, e no, e loro non si scambiano due chiacchiere vecchie, da qua sì. Sei abitato a Tennessee? Ehi, beh, no, non ci ho pensato, vai. Hai ragione, lasciamo libero il canale 23, così loro entrano a farci del chiacchio. E noi usiamo il canale 20, sappiate, il canale 20 da oggi, ok? Il canale vintage, visto che siamo tutti vintage, usiamo il canale vintage, come lo chiamava Marco Scoppio. Oh, mi ha sentito un attimo, Così è il canale vintage, dice. Non so perché è stato sempre chiamato così, forse perché era un intermedio, non lo so come mai è sempre stato chiamato così. Chiamato Marco lo scorso canale vintage, perché facevamo le prove con le radio vintage, capito? E quindi l'ha chiamato così, niente di particolare. Ma va bene, dai, noi rimaniamo sul 20. Poi se capita andiamo su 10, 23 lasciamo libero a loro, così si fanno due chiacchiere, perché non capo, quando siamo noi loro non entrano, non va bene, dai. Infatti. Sì. Perché all'epoca il canale vintage doveva essere il 23, perché all'epoca arrivavano fino al 23, così è. Sì, 23 canali c'erano, iniziavano 6 canali, 8 canali, 12 canali, fino ad arrivare a 23 canali. E quindi il 23 veniva chiamato vintage, così, capito? Poi i 6 canali, però poi ho preso dalla Fidel Castro un 8 canali, poi un 12 canali, poi ho iniziato con 23 canali, 40 canali, poi sono passato dalla sintonia continua. Vabbè, io dico questo, Cla, ci sono tanti canali, cioè siamo dall'1 al 40. Telefono, Cla. Ehi, intanto mi preparo io adesso, vai. Adesso mi preparo, così mettiamo a mettere un'altra passata d'acqua, devo portare il cane, sennò un casino. Ah, il cane deve portare. Ma sta piovendo ancora, Cla? Sì, è iniziato adesso, cazzo, pure il ballo. Scappa, non so. Speriamo che la smetta, cazzo. Erano le 2, capito? Quindi volevo portare già qua, sono le 7:30, boh, aspetto altri 10 minuti, no? Volevo portare per forza. Ma tu compito del biglietto, mamma mia. Ecco, ce l'ho 8 anni, cani, non ci sarà più, credo. Stai tranquillo, non mi prendo più a casa. Se poi mi trasferisco in campagna, allora non c'è problema. Scappa. Qual è l'intenzione di trasferirsi in campagna, di andare lì? Ancora non te ne frega nulla? No, tanto io sono bloccato con la vendita di questa, capito? Se vendo questa sì mi trasferisco. Ma tra le vai e vieni no, perché è inutile che questa chiude, te ne vai, io posso di chiudere e andarmene. Però ma sono le spese condominiali, sono le spese dei lavori che fanno, perché sei proprietario, quindi affittare non me ne frega niente, non me ne frega niente di affittare. Quindi devo decidere, ho già deciso, sto vendendo però, non la posso regalare, se vendo come dico io mi trasferisco del tutto, se no aspetto ancora. Scappa, comunque se te la affitti, quando acaba l'anno ne escono di soldi e devi pagare una piccola tassa, e poi ci sono delle cose particolari che paghi anche poco, ci sono, magari a te non te ne frega niente, però quando acaba l'anno sono dinammi, è come che abbia uno stipendio fisso. No, ci rimetti capo e capo e lascia perdere, perché quando l'affitti devi pagare, il condominio lo pago, devo pagarlo io, il lavoro devo pagare io, tutte le cose devo pagare io, se si faccia qualcosa devo pagarla io, alla fine non ti rimane niente, poi ti faccio nella ghiaccia, e per quanto qui ci debba affittare questo, c'è un centimetro uguale di gas, non è tutto, non è che la puoi affittare 300 euro. Questi affitti qua, ce ne sono due, un affitto pagano, c'è uno 600, l'altro 700 euro al mese, però sono 2.000. Cosa ben, c'è l'affitto a 300 euro, ma non ne manco, pensando ci sto, non so che la fanno. No, ma poi non mi interessa, mia moglie non vuole affittare. La vendo, me ne vado, ma affittare non affitto niente. Vabbè, però se affitti a 700 euro al mese o 600 euro al mese, non è che ogni mese si dica che cosa, no? Non penso che sia che ci deve una costruzione nuova, non penso che sia questi livelli. Accanto a Caballanno, se non succede niente, sono soldini, Boh, ognuno la pensa come vuole. Dobbiamo fare la facciata della strada, e te visto che condizioni è, perché quelle interne sono già state fatte. Ci vogliono 300.000 euro per fare la facciata, capito? 300.000 euro, perché deve lavorare la scala aerea dalla parte del giardino, che ponteggio non ce ne può fare, e poi c'è il ponteggio quello a motore, quello che sale scende, non mi ricordo come si chiama. Ci vogliono 300.000 euro a tutto, capito? Perciò, quindi tu, cioè l'affitto batalogia, a punire di là della facciata e no, non esserci, ce la fai la facciata e poi giuri l'autostrada internamente è nuovissimo, è tutto già fatto un paio di anni fa, abbiamo speso molto meno, perché abbiamo fatto tutto a pezzo, ma la facciata l'ho fatta tutta intera, ed è un bel grande anche, è un bel grande, c'ho 40 metri lungo, dove 40, cioè sono 30 metri lunga per 40 alta, e quindi vedi tu, capito? Ci sono 300.000 euro preventivi che stanno arrivando. Vuol molto, cosa mangerebbe l'affitto, ma la puoi rimetterci una facciata. Ma lo vendo, ma se arrangia chi compra, a me non me la fotti lunga. Cappa, ma non sei presentato nessuno, o tutti i bagliacci che ci sono presentati? No, c'è la ragazzina e già me ne mandano di gente, però la casa piace perché è nuova, tu la conosci, non c'è nessun problema, io l'ho tutta ripresa, era nuova, ma l'ho ripresa in certe cose, quando sono molti miei soci, eccetera, però non ne manca, molto non ne vanno, mi è inutile che ne hanno prime le balle, capito? Informati prima se ti hanno il mutuo, se c'hai i soldi, poi vieni e te la faccio vedere. Invece continuano a venire, sì, va bene, tu mi chiama, no, ma la banca non mi dà i soldi perché sto lavorando meno di un anno, perché, capito, un sacco di scusi. Allora non me li mandare manco, fate vedere l'agenzia, guarda, prima di mandarli, perché io posso avere anche degli impegni, posso cucciare il cane, non posso tenere il cane dentro casa perché non ti fa entrare, quindi mi devo organizzare un'ora prima o 10 minuti prima, portare giù il cane, rimaneremo a casa, eccetera. Comunque ci sono dei problemi. Non me ne mandare di gente che non c'ha soldi, anche mi manderei niente a Villa, però vai a vedere, c'hai il video, c'hai le foto, c'hai tutto, fagliela vedere così. Se non ti dici, fai la domanda, lei c'ha i soldi, ha già chiesto il mutuo, può chiedere il mutuo, cioè, capito? Quando uno è pronto, lo viene, la vede, ti piace, tu dammi i soldi, ciao, arrivederci. Non ci viene niente, la paita lì, sarà voi, mutuo, non mi arrivate. Perché si sa che è così. Cazzo, ma mica sono pure uguali, si sa che così mutano, non te ne danno, no. Cioè, se non hai certi requisiti o certe garanzie, mutano, ne bigli tu, no. Per carità, se può essere un dottore, un avvocato, gente così, cazzo se glielo danno, ma chi ci tipi tu cosa li datene? Oh, non so, noi bisogna essere medici o avvocati per avere un mutuo, avere i requisiti, ha detto bene, quando l'ho preso io dal mutuo, avevo requisiti, stavo lavorando, avevo un botte piedi, ma l'ho lavato, l'ho comprato la casa, però se tu, cazzo, sei appena entrato, sei 3 mesi da Valiendi, anche se c'era buca a paio, ma te la vanno da 3 mesi, se a tempo determinato, cosa fece la banca, ti dia il mutuo, cioè, ma non c'è l'ipoteca a casa, vi saluto tutti. Ok, dai, ce la sentiamo. Eppure lo dovrebbero sapere loro, cazzo, ma mi sono ignoranti come una capra. Ok, vai, Cla, ci sentiamo, ciao. Sì, vabbè, comunque il canale per gli spostamenti è questo, il canale 20, non che te lasciamo libero a loro così ci fanno due chiacchiere la sera, cioè non va bene, ci siamo noi, ho visto che non è entrato nessuno, quindi non va bene, li mandiamo qua, c'è il 20 e 10, o 10 o 20, ok? Ci sentiamo dopo, Ok, ciao. Beh, perché siamo arrabbiati. No, ho detto perché siamo arrabbiati. Cosa è successo? Che ero al telefono? No, arrabbiati no. Stavo spiegando a Antonio il problema della vendita della casa, capito? Che viene venduti a vedere, e poi vale male che non hanno i requisiti. Ma che prima c'è i requisiti e poi viene a vedere la casa, no? Che Antonio, qua? Antonio Bombolo. Ma infatti per ogni cosa. Allora, Cla, io sto vendendo una macchinetta diesel 50 di mia cognata. Ma tutti vengono a vederla e nessuno si abbiglia. Tutti, la prendo, la voglio, domani andiamo, facciamo il passaggio, boom, va. Da poi non si fa sentire più nessuno. Perché non vanno alla finanziaria magari a prendere i soldi? Non gliela danno perché non hanno requisiti. Ma sai la gente che è venuta a prendere la casa? Sì, bellissima casa, super prezzo, interessante, bellissima, non devo fare niente. Qua non c'è a fare niente. Di solito quando compri c'è a fare il bagno, porte, pavimenti. Questa è nuova, l'ho rifatta io quando sono venuto qua a abitare, capito? Per il passo da qua. E niente, perché quella non abbiamo, l'abbiamo già venduta. Niente, non c'è a fare niente, devi fare l'altro buco, poi vai in banca, non hai i requisiti, e non ti ne di là, e non credi che vieni a vedere a casa, quindi ho detto all'agenzia, non mi mandate nessuno, informatevi prima se hai i requisiti, perché io non ho tempo da perdere con nessuno. Beh, scusa, non è che uno va a vedere una casa e non va lì di là, o comunque i requisiti, perché oggi per comprare la casa ci vogliono due stipendi, per poco di fatto. Cosa ti viene giù tu, faria di lavoria domani, caspita, qui metto quello, c'è altrettanto da letto, qui mi faccio lo studio, qui là, aspetta, mi sono interessato, vabbè, tanto che da lei mi faccia sapere, io sono qua, si mette d'accordo con l'agenzia, io non c'entro niente, lei parlo con l'agenzia, a me quando mi chiamate per venire a fermare, io non ho problemi. Sono in passato delle 4 lì, mi ha chiamato il direttore dell'agenzia della Tecnocasa, Valtino, che siamo molto amici. Mi ha detto, cazzo, per fare le giacche, e cosa succede? Ricordi quello che mi hanno dato che la sì, hanno bocciato un mutuo perché era tempo determinato. Cazzo, ma domani uno vanno a comprare la casa e si è il gatto, provvedendo da un anno a tempo determinato. Ma che cazzo requisiti c'hai? No, così non te ne ha, oggi come oggi, non te ne ha nessuno. A malapena te la danno se sei in due lavorando e voli pure un garante. Si qua sagato. Perché non lo so io. Sono friendly. Io ho comprato la prima casa tanti anni fa. Ero già a tempo determinato, avevo un buon stipendio, non avevo nessun altro debito perché non avevo niente, la macchina me l'avevo comprata, in contanti, eppure hanno voluto la garanzia di mia moglie che stava lavorando, capito? Quindi hanno voluto due buste paghe, perché mia moglie lavorava all'asilo nido, hanno voluto due buste paghe, e con tutto che avevo un buon stipendio, ed era tempo indeterminato, non c'era un anno, ma c'era già tanti anni, hanno voluto la garanzia di mia moglie, già avuto, non mi garanzia, e vabbè, così è, comunque, io ve la porto al cane, se ci siete dopo, ricordatevi, questo è il canale secondario, i due canali 10 o canale 20, il 23, appunto, lasciamo a loro così ci fanno due chiacchiere, va bene? Ok, qua. Portami giù, sta dicendo. E beh. A me manda un messaggio anche a Pino, gli dice che siamo qua sul 20, se vuole rientrare dopo. Ok. E non ci ha sentito, boh. E così è capito. ognuno il suo canale, boh, basta. No, problemi con il sollievo, da 10 a 20. Perché però lo stiamo lendo, cioè, alla fine, fine. Un discorso validissimo, dai. Però non può farsi due chiacchiere la sera, ci siamo noi e non è fatto nessuno, va bene. Già abbiamo altri canali. Siamo qua nel 20, quello del PMR, e poi andiamo anche al 10 a fare due chiacchiere, non ce n'è problema. Ma infatti, a voi cazzo ne accorgendi, boh. Ui, ui. Stanno ascoltando, poi ne passano, si spostano ascoltando qua, per esempio, sicuramente. Capito? Io non so, siamo quattro iati, magando mai, boh. Dovemmo stare così, mica una vergogna, è una vergogna. Se uno sta facendo un corso di un certo interesse, di un certo livello, e a te non ti interessa, di canale ce n'è altri, non è che abbiamo niente con nessuno, ecco, che io dove c'è gente, però ci sono a volte dei corsi che non mi interessano, mi sfoco, non mi affitti, non è che devo dare con nessuno. Quindi, va bene, dai, vado a portare il cane, ci chiamo dopo, ok, lascio qua, sono 20 e tornerò a cesso, ok, a dopo, ciao. Ciao, cra. Chi è? Io sono Luca. Ui, è un casotto, chi ci vuole anch'io? Ma cosa da sotto? Un casotto, questo baracchino, quattro iatti, Gemma, Giudito, boh, boh. Andiamo, andiamo. Si fa sugunno! Il sugunno è la manuala! Alto! E beh, già c'è il forro! Buonissima, buonissima, ho già mangiata! Cazzo, già mangiata a burgira! Il forro amari! Ma se posso, la Luca può dare il forro, ma mangiati! Oh. Andiamo, andiamo! Ehi, capa! Ma di cazzo ho giunto il cellulare? Ma faccio andare giù, boh. Andiamo a melomì. Via. Ehi, mica un altro poco di fermentino. Avete già acciato il gelullo. Ecco, mi hanno portato 5 litri di moscato da vendere, però. Chi lo vuole? Ah, di Guido Bono, sì. Moscato, Antu, moscato di quello dolce che ti fa fare le capriole. Un amare che ti venga, chissà, ma di cazzo me ne ha giubito mezza ampulla, ma che è bidato. Quello va mischiato, Antu, non lo puoi vivere così, moscato, già lo sai. È buono perché è dolce mintato, come dice Graziano Buffo. Però ti dà, poi ti fa fare i saltelli e... capito? E spray un bel. Già lo so, già. Uno di a me. Mi so che ci ha abitato un chissà cosa, io. Anche... viva l'Italia, 30 non vorro. Ah, spesso guardando la tua foto. Certo la potevi far caramellare un po', Antu, mi meraviglio di te, cuoco. No, ed è come incendi era in Chivi Trento. Ah, ecco, allora è delusso, allora hai fatto un bel lavoro, vedi? Ma come vedo anche le stazionali stanno bene, sì sì, uno e uno, va bene. Scappa, pure io, no? Che va bene. Su canale 20, oh, ma così muove. Ho 1-1 proprio sul canale 20 anch'io. Un cazzo ne entra Eva. Gli ho messo la cosa, la vasellina gli ho messo. Scivola, cioè come va a piovere scivola. Non gli fa niente. La vasellina, dove l'hai messa la vasellina? PL, per non entrare acqua. Vabbè, no, vabbè, io stavo... mi sono confuso, dai, vabbè. Perché mi hanno messo? E non fare come è andata a comprare la vasellina un amico, cosa, una persona che parla qua. E ha detto, ma cosa risulta questa vasellina? A metterla nella mia fidanzata, gli ha detto al farmacista. Vai tu, oh yeah. No, allora, a me mio zio si era confuso. Una volta gli hanno detto per i tagli, le cose, le bagaglie, eccetera, deve mettere l'aloe. No, l'aloe è micidiale, l'aloe è una pianta che va bene per tutto, no? Lui si è confuso, nel taglio si è messo l'agave, ustione di terzo grado. Ma sai l'agave quanto brucia? Cioè dall'aloe all'agave quanto brucia? Oh, yeah. L'aloe è una pianta veramente miracolosa, perché la usano per tutto. Adesso anche all'Asinara hanno fatto una piantagione di aloe, capite? E sicché la usano per fare shampoo, per fare creme, per tutto, l'aloe però. Ma se tu usi l'agave, che è l'agave è quella con le spine, ma lo sai le ustioni che provoca? Ne comprendia nulla, non ne comprendia. Vabbè, 80 anni, si è confuso. E dall'aloe all'agave, tu sa poco l'agave. Ustioni di terzo grado. Ma quando mai non, gli ha, non ci ha pensato? Vuol dire che non agonisce la pianta? No, perché se tu guardi le piante dell'aloe e dell'agave, un po' si assomigliano, un po' però, solo che una ha le spine e l'altra no, capito? E gli ho pigliato, tagliato e se l'ha sfregata nel taglio. Ricoverato con uzioni di terzo grado, mica brucia l'agave. Bobo, allucinante. Ma cos'è, una è una pianta grassa e l'altra no, forse? Così è. Si assomigliano come piante. Tu guarda su internet l'aloe. L'aloe io ce l'ho piantata qua a casa. Ma molta gente ce l'ha piantata, capito? Perché fa molto bene. Puoi mangiarla così, puoi mangiarla, la bollisci, la fai le creme, fa un sacco di... va bene per tante cose, capito? Bruciature, la puoi anche bere, capito? Ma l'aloe però, ma se tu prendi l'agave, capito? L'agave è quella che fa pianta gigante, pianta grande grande che ha le spine, quella è micidiale. Cavolo! E l'aloe ne ho sentito parlare molto bene, ne ho sentito parlare. Però chi sull'agave non la conosco, la verità. Magari una va le pini e l'altra no. No, la verità non la conosco. Una si chiama agave e una si chiama aloe. Tu guarda su internet, capito, l'aloe è una pianta veramente, veramente ottima, che la fanno addirittura le piantagioni per fare le creme, per fare gli sciampi, perché va bene per tantissime cose, ma non l'agave, capito? Aspetti, mando un messaggio vocale. Scappa. No, ho visto anche lo shampoo con quella sostanza. Ehi, ti ho mandato un messaggio. Cappa. Anzi, troppo lo guardo. Oh, cazzo. Cazzarola, lascia vedere, c'è goglia. Ehi, vabbè. Tu stanotte passa al forno, vermentino. No, io c'ho... Buonasera a tutti. C'ho delle crocchette, mica stanotte, leggero, devi andare. Facendo backup di dati. Sì, avanti, ti sentiamo, avanti, sì, ti ascolto. Come no? Non sei fortissimo di radio, però ti ascolto. 5 di segnale, un 4 di radio, ti posso dare. Sassari, Nord Sardegna. Avanti. Sì, qua maltempo, però ti ascolto, avanti. Sì, ti ascolto, a voglia. Sassari. Centinaia, sì, anche mi arrivi bene, eh. Anche la ridia. Tornato, aspetta, andiamo bene. cazzo, non ridendo di fare una cosa che mi ha detto Luca, cazzo. Capo di cazzo. Oia, ciao, cra, mamma mia. Ero pisciato da risate, ero cazzo. Cazzo, ciao, cazzo. Oia. Oia, mamma mia, cazzo. So cazzo, cazzo, amo cazzo, gioco. Cazzo diavolo! Andiamo! Cazzo, non posso! Già cazzo, sono contento, sta bagnato, sta gira, cazzo! Atto! E dimmi! Ehi, ascolta il messaggio che ti ho mandato adesso, meno e ballami! Quando vuoi fare la prova, pure un Claudio mi, quando la vuoi fare la prova. E beh, guardi. Ehi, sbagliando mi sto, mi, figlia mia mi sto mettendo, mi. Automaticamente ti depila pure qui. Andando in bagno qua, cronometrato. mezzo. Perché l'ha detto minimo, un'ora e mezzo, minimo. Ma di niente, io, 10 minuti, no. Si chiama andato in bagno a cronometrare. Hai visto, così è. Comunque, Luca, un encomio ha detto che è efficace, vero Lugariè? Cazzo, accusate la faccia bulla di mattone in fascia. Ma il fascia mattone bulla, ma ripacca in lui. Cazzo, mi piglia bicchino e vuole entrare la gazzarella. E cos'è, lo tubo di plastica o d'alluminio? No, lo tubo idraulico per cucire i mattonelli. Aspetta che si deve Filippo sta scavando nella cuccia, aspetta un attimo, riprendi tu. Filippo pure te lo sprai e deja vende, mi sa recombinenti. Bobo anda muove. C'è un file, questo si comune dormi a pazzallare, saluto. Antonio, come ti ha giocato di spray, si è fatto giù su corrente, dice aspetta c'è mia moglie con la testa dentro al forno, sta girando la pasta al forno. Beh, tu non hai uomo profittato. Boccaccione come te. Anche tu sono in bagno. Ora andate a buttare un tutto ciò per mettere in sabbia. Secondo me andate a buttare. Capito, mi ha avvicinato 250 metri di spray, incata giù di 50 anni di... scusa, mi sono bene, mi mancano i 20 ml, ma io voglio star sicuro. E vabbè, 250 sono bene però, sono soffri il cuore. Non mi sembra più per la mia azienda, tu hai ragione, sicuramente me l'avrai già pronta la azienda. Io? No, ho delle cose di pollo da fare, ma me le faccio al forno, come sempre, non le faccio al coso, fritte, fritto lo sto evitando qua, o tipo la carne di asinello, la del cavallo, o alla piastra, al forno, capito? Poi vabbè io sono... E c'ho queste crocchette, tipo fatte di pollo, però le faccio al forno. Digitali, con niente, parlato. Mi è sempre più piaciuto. Passa domani a prendere la soffrai, dai. Voglio crocchette di Filippo, ci ti interessa, c'è il pollo e mais. Cerito Giulio. Mais. Pollo e mais non è una grande, insomma, accoppiata. Ma poi così? Cavolo, mais, cereali, verdure, tutto misciato. No, chiaramente è un mescolato, capito, che fanno le crocchette, quelle piccoline. Vieni qua, perché sembra mangiare le cibali, vieni qua. Sono le nome, peraltro. Perché adesso le unghie, la mia volta che cammina, adesso sembra con i zoccoli, sciogà. Cazzo, con i zoccoli, ha detto? Ma su, sai. Io poco si sente lì. Si sente, è il cavato di bai, deve fare la gente intravitto. Ma te già Luca, ma cos'è un mini pony? Cos'è Luca? Luca ha detto, ma cos'è un mini pony? Un mini pony allora. Luca, hai detto ora cavendi, ecco. Mi metto nel tuo pulito e me lo togli, aspetta. Ah, fuori! Ah tu, esci tu nel disegno dal bagno, ah! Bobo, andiamo beh. Certo, come ti fa vedere spray, Antonio, esci subito in bagno. No, stavo facendo i bicioni. Niente, sono ritornato. Ma te ne fai dei bicioni? Qua devo fare le scale. Comunque, tu, passa domani, già ce li ho quella quantità che mi hai chiesto. Dopo però non mi ringraziare chi non ne vuole. Da voi esce i bindeggi, da voi. Ma c'era niente che me ne uscire questa cosa? Perché tutti sono convinti di essere tori, di essere un bel in gamba, no? Ma non è così, no? Quando arriva a 50, non è così, capito? Ma io non ho un bel di manco di te, però. Vabbè, io ti fa vedere di un'ora e mezzo, non ti fa vedere di 5 minuti, avevo voluto vedere a te, a 50 anni. Vabbè, stanno però, mi sono arrivato. Perché sì, sono messo abbastanza male. Ma un'ora ormai la fai, no? Sì. Poi già fa, sentiamo, buonasera, ben tutto, Giulio, se si quando ti dici più o meno, claro, vuol dire che più o meno che più. A chi si ha 3 kg, 3 minuti, fatto. Non è così, no, la vita, amico. Ah ragazzo, mi hai pegliato, ma un coniglio. Aia. Oh, lo a te che prendevi. Che taccia consente, vai là. Adesso mi hai pegliato, ma un coniglio mi hai pegliato. Ma un'ora e un quarto, un'ora e mezza te la devi fare normale. Sì, barzellette, ma provvise. E poi non dico che devi essere precoce. Ma cioè, non penso poco, già è per me. Cioè, perché c'è una cosa bilanciata, giusto? E anche di mette un po', va tu. Mette tutto a manetta. Fatti, non puoi niente. La Russia, cioè, non ti preoccupare. L'ultimo che ha detto così c'è ancora... Non c'è ancora poco niente. Non è quello, io non mi preoccupo. Grazie a Dio. Buona con tutto. Ci sentiamo, ciao. Grazie a Dio, va tutto bene. Non so, gobrecocce, come se un bel di niente. Cioè, non è cazzo che basta vedere appena una cosa, ma è già fatto. No, quello non, no, assolutamente. Grazie a Dio io me la cavo abbastanza bene. Grazie a Dio. Vabbè, tutti sono spariti perché si vergognano. No. Tanto il normale è un'ora, il normale, poi chi ha bisogno di aiuti un'ora e mezzo, due, è un altro discorso, però il normale è un'ora, poi tutti dicono, dopo i buoni, 10 minuti, è tutto fatto. E va a finire la bella razza. E la superdoppio degli anziani, mi, oh ya. Ah, se già si va a coccarsi, va a si compiere, tanto no, è un fungo lungo mezz'ora. Lo sto aiutando, Emanuele, come l'ho venduto a te, mezzo litro, lasciami vendi a me puro. Cazzo mi hai venduto, che lo sei? No, pellet. Cazzo altro, cosa ti puoi vendere, in valuce? Cosa vuoi fare? Ah tu! Sì, dimmi! Comunque, mandami un messaggio. Capito, la prima prova è gratis, ma l'altra, oia, se non mi devi zecchi. La di Rabu mi si già vende subito, a chi è solo la prima ti do gratis, come da Emanuele, capito, la prima solo ti do gratis, poi se tu a cercare a me, ok, non fare l'allaccio, mi va tu. Che pregucci di dire. Uia. Cazzo, mi si arrivende per due volte, mi si arrivende Emanuele. Ehi, ora ti vengo, faccia. Ma il tipo ne ha bozzi, no? A bozzi. No, è a bozzi. Cazzo, io ci occupo a vedere normale. E tu, si apre il balcone, intendo dai nomi. Esageremo, dai. Non devi zicchiare, Emanuele. Allora, e cosa un attimino? Ti ha aiutato il suo spray. Ma noi te l'hai frucciato la gola, no? No, hai sbagliato il passione. Aspetta il telefono. Ah, tu? Ehi. Cappa, ma mica è macco il tuo Emanuele. Mi ha aiutato lo spray, se hai bruciato la gola e le ha bozze baghissu. Uiuia. Ho ripetuto due tanto e non cazzo mi ha rubito tutte quante volte, mi ha rubito. Ehi, anche tanto è uno spray, no? Oh no? Ehi. Ci sono stato 20 anni fa questa cosa. Allora sai che è stata una vita con la bocca va in doccia. Tu, mica è vero, eh! Allora non mi credi, eh! Tu! Quando poni lo spray, mica gli devi fare la chita cosa a bocca, no? Ma la buffonella di sì, che rimane con la bocca amareggiosa. Allora, se si ha la bocca, ci ho fatto. Ah, se vuoi, tipo dentista l'ha fatto, mo boh. Adesso manco di denti, ti ne ha più. Tanto, ora già che fate così, è a base di carciofo, capito? Per la bocca. Fate di cazzo lo fai. Ehi, lei ha la bocca, lei, ti fate tutti i denti, niedi, niedi. Infatti, alla voi che fai questo trattamento, devi usare il limone, Antò, capito? Mi portate il limone, vivo. Oh, che fa il buon effetto che trudeggia, no? Ehi, all'incirca è così, dai. Ma si hai cercato, Antonio, Si me l'ho chiamato mezzo litro. Vai tu. Tanto, mi la fa come ti ha fatto Manuele, né? Che dopo è rimasto con la bocca a fare il duccia, amico. Ma poi Manuele tratta di subscribe, ma se cade addrezzarsi. E lei ci addrezzarsi di chi le si è mangiata la goccia, la mangagliò. La bocca le si è mangiata. Madre di Dio, come sto? Oh, iaia. Vabbè. Meno male scherziamo, se no da Dio oggi mi. Ah, Manuele, ma dove eri in via Pascoli? Era lì, dove abitavi prima tu una volta, quella zona lì dove c'era Nappi, vicino dove ci stava prima Nappi. Ah, ho capito, sì. Ehi, va bene. E lì io c'ho ancora il garage di fronte, dove abitava Franco Vividi. Ah, dove c'è il meccanico? E via. Ho capito. Il meccanico, cos'è? L'elettroauto, cos'è? E l'elettroauto lì c'ho il garage, dove mettevo la moto, la Smart, altro non ci sta. E che dobbiamo imbarrarsi, anche lì devo andare a svuotarlo, mamma mia, guarda che palle. Ma tu paghi di garage lì a Ocla? 50. Ma se non sai. Vabbè, più o meno sono così gli affitti dei garage. Ma io mettevo la Smart perché era moto, capito? Era moto, perché non potevo lasciarla fuori. Poi sono venuto qua, era stata piena di roba, ho messo altra roba e qui l'ho tenuto. E dicevo, vabbè, sicuramente di qualche 8 anni. Ma tu quando abitavi lì io non c'ero qua, no? Ero su a Milano. No, tu eri su a Milano, che mi aveva fatto vedere la radio che stavi dando, Luca, 4.50. No, era il 4.40 era, mi sembra. Oh, quella radio era Luca, la che mi avevi fatto vedere di Emanuele quando era su. 4.50 era. Solo che da voi tanto lo spray se ne è dimenticato. E dobbiamo sentire di non fare lo spray. Ma Antonio già puoi lo spray da basso al forno me. Passa la via di te, Giave. Mamma mia, l'ha detto, vabbè, quando vuoi vieni a prenderlo, mica è già in carriera. Bubu. E la metti? Adesso ti avevi sentito convinto. Veramente? Al distributore. Gesù Maria. Per carità. Ma è praticamente uno spray azione Viagra, diciamo, lui. Sì, esatto. La gente mi avrebbe dato un messaggio di Antonio, 2:30, ma spaccio e fendi. Tanto mica non si visimi. Per via mentale è quello. Tanto, attento mi ti ripruzzi, anche se no. Ah, un amico mio se l'ha spruzzata nella. Ha imbagliato e se l'è spruzzata in l'anca. Lì si è reggirita tutta l'anca, faria gamba di legno. Ma la cazzo è sta cosa? Ma la cazzo l'avete fatto? Ocra! Ha detto sì. Sei a gamba di legno e c'è regista tutta l'acca, tu immagina di dove abbiare un grande a via Pascoli, a via Gogio, a via Carlo Felice, a dove abbigliare un bollicino lì su Mari Invalidi, a chi non sta a zia un grande. Quando te lo sluzzi, una sluzzata non va a colpo, non vuol dire, Mi se va come ti ho risposto. E il prezzo al litro è quello. Non mi chiede altro. Sono andato a pigliare un bollicino, visto che va la Berana ma a stare con la sedia a carrozzelle. La rimbocco in chivi, a tipo pedana idraulica, che ci asfonda idraulica, si era stato qui a chi non fa fazia a pigliare l'anca. Io forse un cavolo della pena di mettere. Non è possibile. Dai, ma non è possibile. Ma non è possibile. Ma non è possibile. Ma non è possibile. Ma non è possibile. Che abbiamo impiegato noi, Oca. Capito? Oh, Antonio. Oh, trovi anche su, come si chiama? Quello che piace a me, a te, a Tonino, il coso, quello sfumantino. No, non è dove vendi chi su moscato. Permettere che di gallura ho pigliato una pura mi la gioco grebata mamma mia tu che ti hai bevuto il vermentino ti pruzzi un'impostata di suo spray magnetico che va a Lucca allora che fatti guarda non ce n'è per nessuno. Ehi tu dai, ho letto il messaggio e vabbè anche con il reddito di cittadinanza lo posso prendere, non ti preoccupare. Sì, vabbè, è una cazzola. Ordinare quello a tipo punture, lui tanto dice bravo a fare la puntura. Ogni anno ne fai una, prima un logo, poi all'altro, dipende. Dove ci vuole irrigidire. Ma tu cosa è questa cosa? Ci moriamo d'accordo, non ti preoccupare. Tanto gusta, lui va questa cosa, tanto gusta. Oh, via. Tu devi fare un boccetto, 6 mesi. Ma tu non è 30. Allora, quando devo andare nell'ascensore, attento a tu, sicuramente che tu vedo si può fare sembramento. Tu quando ti puzzi il suo spray devi stare lontano me, ma non basta 1 metro, 2 metri miliardi, anche se non tocchi Una roba è già cosa è. Diventa un rocco così freddo, guarda. Si freddo. Si freddo. Antonio prendi troppo gas. No, Anto, troppo gas. No, non va bene così. Devi avere meno gas e più spray. Si rasso e prendi il gas. Ti ho liberato un po' con la mano il gas, quando dici un liquido hai sul gatto di bombole, mamma mia. Però sai che ha fatto appena defitto. Praticamente, come ti si dice? Il vermentino. Ha più respirato già da romanzano. No, ma che? Poi ha più vita. Dove è che puoi fumare? Capito, compreso. E quello la mattina ti vedo ogni tanto, io ti controllo, ti vedo ogni tanto che passi da deposito a loggia alimentare e ne fare mangiare niente urbanino, eh? E di traverso burro. Sì, di traverso. Di traverso. E praticamente, come ti dici? Vaffanculo. Cosa tu? No, che... Andiamo a scuola a guida, resti di un caso non ne comprendo un cazzo. Quando stai a scuola a guida tu? Tutto che sì. Cazzo gli hai lavora, Roma qui c'è la giura, esci, invece sta sempre un piso cane morto fatto. Esci la giura, cosa? No, adesso andiamo già. Noi figo la furgonetta da solo, certo, ogni volta devi fare un tizio, un guido guida e tu devi garrare, tu sempre bugiato, cazzo. Mamma mia, quanto me dà fastidio a me, per carità. E là ti cuovo un po' di torra. Allora, già ti serve la tua patente, ti prendo la macchinetta per i fatti tuoi, uscite, con la signora, ma fate un giro, capito? Ci vuole la macchina tua, la tua età, ci vuole. Sì, ci vuole dove si... Ehi, però adesso mi... Adesso sto andando con la guida, piano piano, e via. Allora, quando faccio qualche minuto, vediamo che ho qualche bomba va bene, mi devo fare a casa, la levo la bicicletta elettrica. Se no, troppo di spray. Io sono capofonente, mi lo posso davvero, me. Ma sono tutto cammini con lo spray. Di più, ma non è. Non è per vantarmi, ma la bicicletta elettrica a me la cammina davvero, me. Però un bucarotto, e occhi, in corso a vedere Emanuele, la di Santiago, la dice vai, tirami il guglione, vai. Cioè, perché... Capito, ma mio zio gli aveva fatto fare una cosa, gli aveva fatto proprio cammina. Cosa sono sempre giambe di freni, gatto, che cammina è cosa amara, questa bicicletta. Appena Ducata, compreso. E cosa gli hai fatto tu? Turbo l'hai fatto? Turbo? No, praticamente mio zio gli ha cambiato la batteria, gli ha cambiato. La cucciatura c'è. Allora io porto la pulsa. Non può di più. No, lo spray la pulsa. Cioè, per esempio, prendo quella di Papo. Lo spray la pulsa. Cioè, figlio da me è volante a Milano. Già per la sua categoria cammina troppo, cammina. E che non si può cambiare il motore, se no abbiamo un motore a 500 watt e cazzo da pure volava. Solo che devi stare attento, se no cazzo di arrombare il lungo. Le biciclette devi stare attento sempre, se no un casino. Beh raga, io ho fame, io dai, sono 8:30, non sono 25, sono, dai. Io vi saluto, se ci siete a dopo, se no tenete duro. Mi raccomando Antone, non urlinare più di una bomboletta, Famiglia! Lo sento anche io, ciao Flavio, ciao Antonio, ciao Luca, ce la riascoltiamo là in casa mai domani. Ciao ciao, bye bye. Non entri dopo, Manuele. E se non dormi nessuno? Beh, se entrate o in PMR o qua nel 20 ci facciamo quel chiacchiere, entrate domani, domenica, che se no dobbiamo andare a travagliano. Ah, io date un orario, dai, anche io devo cenare. Sì, cenate e poi ci sentiamo qua, dai. Ho qua un PMR, io c'ho tutto acceso, magari entra anche Tonino, capito, ora mando un messaggio. Sì, Tonino già entra, manda un messaggio che già entra. Gappa, ma a Latti Dozzi, da quale parte? Come sto arrivando a proposito? Perché ho cambiato antenna. 9:10, Arturo, la radio è buona. Di prima? Che bello di prima, sì. Ma tu hai spruzzato lungo l'antenna, io ho grido. La lungata di tre, un dumbo di poco. Prima non me trovateci da 3 metri. Prima ha dato lo vermentino, dopo la buccia lo spray, mi si maccomi. L'ha ubriacato. Ehi, va bene, dai. Vediamo, non mi ha dormito il primo, non sta calando la palpa, ma comunque, dai. Io lascio tutto acceso. Lascio tutto acceso, vai, qua è PMR, ci sentiamo dopo ragazzi, vado a mangiare, se non mi trovo questa bottona, è così comoda, mi sta venendo la bacchia, come ti piace l'uno. Ho già preparato tutto, non ti dimentica che alle 8:30 vengo a prendertemi, perché poi devo scappare. Ci prendiamo un caffè e ti dico quello che devi fare a quei microfoni e poi me ne vado, ok? Eia, ci sentiamo dopo, dai. Poi ci troviamo a Bassano, intanto Manuele ha detto che viene a pagarci la colazione, e Gianni Magni. Perché Bassano è aperto la domenica? Sì, la domenica mattina sì. Allora facciamo una cosa, io vi aspetto alle 8:30 al Bassano, ma mi raccomando, minando, Lu, perché ho i minuti contatti, ora non permetto di lasciare a casa, ok? Ma scherza, allora ti metti zinco su quegli aghili. Manuele ha detto, ia bene, vero Manuele? E Antonio non ha tessi, però Antonio c'è un dubbio. Se piglio la bicicletta elettrica, in 5 minuti giochi in chive. Dai, ti aspettiamo a tu, 8:30 lì, qui al Bassan, dove è mattina. Facciamo colazione tutti insieme, dai. Davvero, sì, mica sta arrivando. Ehi, che ho appuntamento con Claudio, capito, che mi deve dare la roba. Ehi, con Manuele, dai. Ehi, a Manuele devo dare lo spray, così che ci troviamo al Bassan, a tu. Oh, sì, dai, Antonio, se vuoi venire non c'è problema, un caffettino, devo darle dei microfoni per fare le connessioni a Luca, dai. Se no, magari se uno intende, mi deve fare roba, ben sai che siamo con cuore. Devo avere due microfoni che mi deve. Un microfono, dai, però deve copiare dall'altro, che mi servono per le radio, per i baracchini. Se vieni mi fa piacere, dai, così vi offro il caffè e poi me ne vado. Ciao a tutti, a dopo, vado a mangiare, ciao. Vabbè, se non fa acqua già vengo, ok? Non lo so, ma se piove, non lo so, comunque mi sembra di sì, così ha detto Luca, no Luca? Dipende dal vento, qua. Va bene, dai, comunque noi rimaniamo così. Manuele, Manuele! Piove di sera, allora non si posso venire, va bene, lascia acceso per entrare dopo, dai. Se no vado a cenare anch'io, a dopo. Ehi, sentiamo dopo, ciao a tutti. Ciao, ciao.